mi interessi chissà cosa, io prendo e ho sempre la radio tutte quante in scan, quindi non sempre facendo scansione, quindi non è che ho problemi, non è che ho problemi. Io a me piace anche ascoltare, per parlare non è che mi interessi più di tanto, però se mi serve ce l'ho. No, anche io sono sempre stato SWL da sempre, mi piaceva sempre ascoltare, poi qualche volta sono iniziato anche a parlare, però prima ascoltavo tantissimo. Io è bello anche ascoltare. Vabbè, roba che ho un traliccio per le mani di 4 metri, nero, un traliccio 4 metri, è leggerino, non è come quello che ho io, sempre un 30x30, però è nero, 4 metri, è netto. Ma in che materiale, alluminio o metallo? Metallo. Allora, c'era Claudio, poi forse potrebbe andare bene a Claudio, quanto lo sta vendendo, che lo diciamo? Potrebbe avanti un 150. Ed è robusto, cioè rimane dritto da solo questa cosa. Ma stai scherzando. E addirittura non è, cioè è comprato, non è roba autocostruita, è roba comprata. È della Profras. Però per me è diventato troppo. Dai, non lo sto usando perché lo usavo per fare installazioni in discoteca. Cioè quando c'erano ancora i far. Adesso le tezze mobili, quello non va più bene, ce l'ho in garage, ho detto beh adesso lo vendo, sono 4 metri, ti mando la foto, l'ho messo qua in veranda, che non aveva un'ingrassata nelle giunture, e lo faccio fuori, se lo vuoi, non meno di 150 euro per te, se li vali tutti. Ma cosa volevo dire? È tutto un colpo unico o due pezzi? Due pezzi da 2 metri, sono due pezzi da 2 metri. Allora, questo è buono, io adesso vabbè, l'ho preso quando l'anno scorso proprio, ne ho due pezzi, tre pezzi da 2 metri, triangolare, sembra che sia da 30 per lato il triangolo, se no l'avrei preso volentieri io, perché fa sempre comodo quello lì, però è un buon prezzo, se mi stai parlando anche di una struttura robusta, il mio non è forte come struttura, diciamo a 6 metri penso che usciti parecchio, poteva metterli perché è leggerino, erano di quelle americane, però per mettere roba leggera sicuramente. Sì, no, vabbè, anche questo qua è. No, a tenere mi sembra che c'ha 250 kg a metro di tenuta come portata, quindi non essere forte è forte. Avevamo i far noi, le barre dei far, mettevamo tre barre di far da 6 luna, non a voglia che tiene, a voglia che tiene, però non me ne faccio niente, quanti tralicci mi devo mettere sul tetto? No, questo lo vendo anche perché non devo installare altro, mi seguo. Comode anche quelle foto che mi hai mandato di, non so se l'ho messo, mi hai mandato o se l'ho visto dal coso, da qualche parte, quello Lanarei, un impianto Lanarei per tenere le casse, come si chiama, carrellato, con il tripiede sotto, con la base, possibile me l'hai mandata tu la foto? Sì, le genie, io ce l'ho le genie. Salgono 8 metri, a 8 metri tengono 285 kg. E poi ho le zampe fatte in traliccio, in pratica rimangono a 22 gradi inclinate, hanno il cappello sopra, e poi hanno le zasche, hanno zampe di gallina, se metti la Narelo, qualsiasi tipo di parlante, poi nella base appoggi subito per fare la contrapeso. No, sono belle, quella è sicuramente una enorme un'esorbitale di prezzo, una struttura del genere, carrellata con tutto cosa, non mi immagino quanto costa una cosa del genere. 4.500 euro l'una, in base, comprate nel 2020. Figurati, te lo conto, un altro giorno, tre giorni fa mi pare, avanti ieri, stavo parlando un amico della diamantola, si è ordinato il traliccio da 12 metri, stavamo parlando, l'ha pagato, quella struttura da 70 centimetri, l'ha pagato 3.000 euro, fatti il conto, quello che stai dicendo tu, cosa c'è di tecnologia? Non so quanto costa la struttura completa, la chiamo copertura, rigo, quello che chiamare la copertura, ora in pratica non so se questa non si è andata la cavalcata, cioè la voluta. 60.000 euro viene, sono 60.000 euro da lui. Ma le immagini, stiamo parlando di cose professionali, certificate, eccetera, eccetera, non è che ti metta a mettere un pezzo di ferro così, scartolare, e ci appoggi roba, c'è una certificazione. Tra l'altro c'hanno anche delle scadenze, queste si mettono anche e vanno collaudate ogni certo tempo, di un certo periodo. Ma no, collaudate la tua, diciamo, discrezione, c'hanno le uova, si chiamano uova, che sono giunti insieme tra un alluminio e l'altro, e tra una barra e l'altra, che quelli diciamo che sono il perno portante della struttura, perché ci vanno le uova, ci vanno i chiodi, ci vanno i bulloni, ci vanno le cupiglie, ci vanno ci va tanta roba, ci va tantissima roba per giungere quella roba lì. Questo alluminio, se trovo la verità, lo vendo, cioè questo traliccio, se trovo lo vendo, perché non me ne faccio niente, è nuovo, è nero opaco, bello. Metto, quant'è la base? 30x30, scusami, 30x30, ti mando la foto, guarda, adesso ti giro la foto. Ma la base è triangolare o quadrata? Triangolare, ti mando la foto mia, se riesco veramente te la faccio, aspetta. Ma teoricamente si può anche comporre, cioè c'è la possibilità, o quello è fatto per avere il massimo con l'altezza? No, lo puoi comporre, gli togli i gommini e ne aggiungi un altro pezzo, capito? Gli togli i gommini e ne aggiungi un altro pezzo, questo qua secondo me puoi tenerlo anche alto 10 metri, puoi fare 5 pezzi, fai 5 pezzi da 2 e 10 metri sale. Ero mezzo intenzionato a farli, diciamo, la prolunga su per la graziole, ma non tanto, non cambia niente, cioè da 6 metri a 10 non cambia niente, cambia solo che devi fare un bordello, devo cambiarli tutti gli strafaggi sotto, perché sembra così, ma 10 metri più antenna, devi cambiare tutto, devo cambiare il basamento, e poi devo già iniziare a mettere controventi, cose, venti, quello, quell'altro, bullonare, fare, diventa un lavoro difficile, e poi no, a me mi va bene così, vabbè. Assolutamente d'accordo, infatti perché sali da 2 metri sali a 10 metri, ma dalla razza a 4 metri in più non è che ti cambi più di niente, ma non che non c'hai una collinetta millimetrica che non riesci a passare, ma sono casi rarissimi quelli lì. Ok, quello che c'hai tu adesso quanti metri è, quello che mi hai mandato la foto? Quello lì è 6 metri. La base da quanto è quello? 30x30, però quello lì è della, come si dice, della Lightech, quello è della Lightech, quello lì è proprio massiccio l'alluminio, quell'alluminio a 500 kg a tenuta per ogni metro, è un alluminio totalmente diverso da quelli che si vedono, di lì prendevamo il Meyer noi, con l'alluminio lì è assurdo, è leggero e forte, Ciappa, e quando da quello che sono andato a Movoro a prenderlo, questo faceva il service, lo stesso questo qua, ho preso quello lì, me lo sono caricato nella multipla, ne ho tolto i sedili davanti e dietro, c'è stato giusto a 3 pezzi da 2 metri triangolare zincato, e poi ne aveva uno grosso, però molto più grosso, in alluminio, però era troppo esagerato per i miei gusti, erano pezzi da 2 metri, però la base era molto larga, sarà stata almeno spesso 60 cm, era il doppio del mio, tipo se potevi anche arrampicare, però te lascia perdere, non mi interessa, e tu mi se lo vuole qualcuno, c'erano un sacco di pezzi, ma quanto possono salire normalmente? Quanto è il limite massimo di queste strutture qua per montare delle casse? Quanto si arriva? Noi siamo arrivati anche a 12 metri, capito? Noi siamo arrivati anche a 12 metri, vabbè. Non hai una specifica di altezza, quindi il regolo, l'importante è che c'è il basamento buono, ci sono le torri, capito, che le tengono e poi sali, ma in genere arrivi massimo a 9 metri, 9,50 metri, mi sembra. Ma quando ci sono quei mega concerti tipo Vasco Rossi, cose così, che fanno quelle strutture enormi dove mettono gli schermi, le luci, le cose, quelli sono belli alti. Quelli lì sono tralicci, basamento 2 metri per 2 metri, cioè, allora in pratica fanno 4 piloni, sono 4 piloni per far salire le torri, sono basamento 2 metri per 2 metri, arrivano poi ci sono i, diciamo, si chiamano layer, che sono ponteggi, diciamo che sono ponteggi, e si attaccano a questo traliccio con tutte le zavorre, con tutti i contrappesi, e viaggi lì, si aprono le altoparlanti, si aprono i led, si aprono le luci, e noi per esempio quando facciamo la Berthe, abbiamo fatto la Berthe a Golf Aranci quest'anno, l'anno scorso, scusa, erano l'AIE, ci sono l'AIE Rizzi, vicino a Rizzano, noi usiamo spesso l'AIE, non ce l'abbiamo noi, però ci sono delle ditte a forza che montano i layer, ma fanno 200 metri, 200 metri per 20, con Toro Pelù, allora, con il FIBA a Cagliari, non il FIBA, il Toro Pelù, con Toro Pelù a Cagliari, all'Arena, c'erano, era 100, 118 metri per 118 metri per 40 al palco. È un campo di calcio allucinante, figurati quando ci sono quei mega concerti internazionali, Bruce Springsteen, U2 o cose del genere, Simple Minds, che facevano quelli, non parliamo di Pink Floyd, di Why, che quelli non li cerchiamo. Quelli lì, tu considera che gli ACDC, ci sono, per un concerto di ACDC preparano, montano mesi prima, montano le strutture mesi prima, si aprono, si apre il palco, escono loro, fanno un casino, monta carichi sotto il palco, cinghie, tu pensi che nei concerti, lo sai, nei concerti la gente che c'è appesa le cinghie sopra lavorando, neanche te non lo sai e non li vedi, sopra ci sono gli aierizi che le mandano appesi per le scenografie, imbragati. Mi era capitato in un paio di concerti, li ho visti durante il concerto imbragati sopra, non li vedevi, erano tutti coperti, però erano loro sopra, comandavano certi sistemi di cose, di luci, di movimentazioni, non so di che cosa, concerti di un certo livello. Adesso ci sono il concerto, quest'anno è importante, in Italia fanno quello dei Depeche Mode, lo fanno a Roma e a Milano, allo Stadio Olimpico e a San Siro, chissà cosa ci sarà lì. Depeche Mode, quelli lo stesso. Ma tu lo sai che a San Siro quando ci sono i concerti c'è una struttura per coprire il campo, non è che loro fanno i concerti nel campo, nell'erbetta, c'è proprio la struttura per i concerti, un pavimento che copre tutto il campo sportivo. Chissà sennò lo farebbero bello, cosa. Così quello, io non sono andato, mio nipoti sono andati ad Amsterdam in quello stadio, come si chiama, quello di Amsterdam, quello che si apre e si trasforma in un teatro, un coso, un campo di calcio, e poi si trasforma in un'arena per fare i concerti, ma lì c'è una cosa fantascienza, cosa c'è di lì? E tu devi vedere quando ci sono i Pink Floyd, allora, i Pink Floyd, tu pensa a Venezia, quando hanno installato sulla chiatta, quella chiatta era galleggiante, però era lavorata a fondo, tu sai che marca avrebbe, che auto aveva Pink Floyd? Che cosa hanno capito, che cosa avevano? Sì, ho visto il concerto, era sulla laguna, cosa, una piattaforma, hanno fatto una cosa a livello mondiale, forse non ne hanno mai fatto di concerti così importanti in Italia. Cosa mi ha detto, scusa? Non sai che impianto audio hanno usato Pink Floyd? Non lo so cosa c'aveva, Martin. Turbo Sound. Avevano 82 TMS3, segnate le mix se te lo vuoi guardare, 82 TMS3 della Turbo Sound, in pratica sono test, 82 test per parte e 128 sub, TSE 218. Guarda, Turbo Sound, adesso magari qualcuno si metterà a ridere, ma all'epoca tu lo sapevi di me, era un marchio, che tanto sono italiane se non sbaglio, che andava per la maggiore Turbo Sound, poi sono piantate da altri sistemi, però all'epoca hanno fatto la storia. Sì, sì, sì, io ho avuto l'impianto Turbo Sound, le THL4 si chiamano, l'ho venduto a Torino, 16 test, se ne montavano per lato, ma giravamo con 190, si girava con 190 solo per l'audio. Niente, c'erano 82 TMS3, e sono altoparlanti tre vie, hanno doppio medio da 10, tromba da 3 e doppio woofer da 15 pollici, ce ne ho 82 per parte. Passava al capo dell'alimentazione del sotto dentro la laguna, c'erano 8 capi di alimentazione, a me me l'ha raccontato chi ha lavorato lì, quindi non mi ha detto bugie. Hanno attenuato tantissimo per non creare danni alle strutture, mi sembra. Ma c'è propagazione, quasi quasi ti stava sorpassando, non so se sei americano o chi. No, di lì devi stare anche attento alle cose archeologiche, storiche, tutte le edifici e tutto qua. Così quello di Vasco Rossi, mi ha dato il concerto che ha fatto Vasco Rossi, non mi ricordo dopo, qualche anno fa, all'aperto erano, mi sembra avevano 700.000 watt, una cosa spaventosa. Però era il palco, non so a che distanza era, forse è stato il record in Italia di spettatori in parete, più di 200.000 spettatori, a cosa la paura, non mi ricordo se avevamo fatto l'aeroporto di Asiago, adesso non mi ricordo, non ti vorrei dire fesserie, comunque c'era un'amplificazione da 700.000 watt. Aspetta che finisce questo qua, Vasco c'ha l'acoustic, Vasco usa l'acoustic, è un service di Milano, è un service di Milano, si chiama Allora, il service di Vasco, ed è lo stesso della Pausini, lo stesso di Mengoni, ed è lo stesso che è venuto a Sardegna per la manifestazione che hanno fatto a Olbia, per Olbia c'era un Adamson, c'era un impianto Adamson, sempre da una rete. Stanno arrivando a 9 più 10 questi qua, non ho capito chi sono americani o cosa, non li ho ascoltati, quasi quasi ti sovrastavano, tu sei un po' più alto, sei 9 più 15, segnaloni, oggi c'erano gli americani, mi è arrivato un picco di 9 più 30, infatti ho detto cavolo, dove erano qui, se neanche sa che potenze stavano utilizzando, così vabbè, quelli in America ci sono diverse normative, poi se ne fregano, aspetta un megatralice e cosa, no? Io di concerti quando ero con l'acquedotto, visto che abito vicino, quando ero ragazzotto me li ho visti tutti. Il concerto che a me mi ha impressionato più di tutti come amplificazione, quantità di casse, adesso sarà ridicolo fare una cosa del genere, il concerto di Edoardo Mennato e il concerto degli Spandau Ballet, avevano un'acustica spaventosa. Quello di Edoardo Mennato era la paura, quei vecchi cassoni che si usavano prima, caricati a tromba, dei mega woof e cose del genere, che adesso con un quarto delle dimensioni so che quattro volte di più, però all'epoca si usavano quei mega cassoni. E quello della Spandau Ballet non so chi l'abbia, probabilmente l'hanno portato loro, era un impianto da paura, spaventoso. Mennato l'abbiamo fatto noi ad Arzachena, quattro anni fa, ad Arzachena, sì, quello è un pazzo scatenato, Mennato è un pazzo scatenato. Mennato, io forse in assoluto, senza forse, da parte mia in assoluto è il più grande musicista completo italiano, perché è un musicista, un cantante, compositore, fa tutto. Per me è il numero uno in assoluto, non ne abbiamo in Italia a livelli suoi. Tu ben sai che è stato progettato per suonare in quel determinato punto e non andare più a fondo, perché la gente pensa che la nariz suona forte, la nariz è una cosa che concentra il suono lì, e anche l'onda direzionale che tu gli autoparlanti è diversa dal point source, da un caricato a tromba. Prima quando si facevano i concerti si sentiva tutto il paese, e quando usavi un impianto a tromba a 150-220 ti spettinava, adesso non fai più niente, adesso si è in ottima qualità, trasporti tutto se vogliamo in un daily, però niente di paragonabile a quando ero ragazzino che andavo con un servizio di corrotore, stavo da Turbo Sound e abbiamo fatto un mattiato assurdo, e zucchero, e poi abbiamo fatto il controbasso, abbiamo fatto anche cose, cioè avevamo fatto il tour, ma ero ragazzino, andavo con loro, andavo a imparare a fare, come si dice, abbiamo fatto per due anni il tour di tutti in Sardegna, no? Si sentiva in tutto il paese, a Santo Doro, per poco buttavo in terra la piazza. Lo so, prima era tutto diverso, adesso anche per questioni di inquinamento acustico ti vietano di utilizzare quei sistemi lì, sarebbe inconcepibile, perché a parte ci vogliono dimensioni di spazio per mettere quelle casse. Io mi ricordo quello di Mennato, era spaventoso, c'erano 25.000 watt, che adesso fa ridere, c'era un carro di carnevale 25.000 watt, però avevano una quantità di suono, tu mi dirai sotto non ci potevi stare perché era troppo esagerato, però ti mettevi a 200 metri e sentivi forte a 200 metri. Questi Lana e Ray sono tutti diversi, un sistema musica concentrata, in quel punto lì dove c'è la cosa, ti sposti di 50 metri lateralmente e non senti quasi niente, è tutta la tecnologia. Io mi ricordo, molti erano, la maggior parte di quegli impianti erano della Martin, mi ricordo qualche volta è capitato GBL, però molti avevano i Martin e il Turbo Sound, e poi non so se ti li ricordi tu, che li avevano portati qua a Sassari, le Stage & Company, ti ricordi che era il costruttore della GBL, un ingegnere, si è messo a fare le casse ed erano la copia delle GBL. Sì, ce l'ho avuto il quattro Stage & Company. Avevo... Io. Ma la Stage & Company è quelle blu brutte che non suonano, che sono quelle scatole di scarpe, non rendono niente quelle autoparlanti. Hanno voluto copiarli dalle GBL, dalle 4818, dalle 4515. Ma la Stage & Company era, sì, è vero, è stata copiata dalla GBL, ma non arresa niente, barattoli, quelli erano barattoli. Ho avuto 4 sub, 4 teste, 4, erano 4 sub, 4 medio, 4 medio bassi, 4 medio alti e 4 trombe, erano intanto di quelli vecchi. avevamo preso per fare una festa a reggae, forse perché avevamo questo tour di reggae e volevano lo stage company. Allora è arrivato questo impianto, è un barattolo, un barattolo. E poi noi abbiamo anche ancora oggi per le discoteche, per fare serate discoteca a Tote, abbiamo il Function One. Ancora. Sì, hai detto bene, le CGE Company erano azzurre, erano una via di mezzo, era l'ingegnere della GBL che poi si è messo a cercare di imitare anche l'Eclipse, perché come forma erano uguali all'Eclipse, non so se te ricordi, con l'Eclipse, con le grosse, che ci sono i cassoni al Bluesar ancora, almeno c'erano al Bluesar, erano molto simili a quello, però non c'avevano niente di confronto. Avevo visto le prove su riviste sul suono, però non è che ne avevano parlato tanto bene. Una cosa avere GBL con i componenti GBL è un'altra cosa, mettere la testa a casa come forma, però ci mette mai un altro parlante più scarso, e infatti non è che siano durate più di tanto, credo che non esista più neanche quel marchio. L'aveva portato qua a Sassari, mi sembra Audiolinea, se non sbaglio, confermi o che cosa? Sì. Avevano componenti Sica, che in pratica è l'EM, i vecchi LEM, ma era robaccia, ma robaccia veramente, robaccia fatta in MDF, neanche multitratto, era come GBL, ma era MDF. Scusa un attimino Roberto. Che avanti? Io Antonio sono, ho detto che pure sono RCF, FBT. Chi ci tocca le forze? DB sono buone come casse, quelli toccano forte, perché avevamo fatto per Francesco Venga, vabbè, abbiamo messo, e poi c'è un'altra marca, c'è cazzo, c'è una offerta allucinante, non è, mi pare che sia, non mi ricordo cosa ha fatto, ma non lo so, grazie, è una cosa impressionante, non mi ricordo, mi pare che sono, le cose siano finte, come abbiamo avuto un po' via. Comunque erano come noi, come casa del mondo, quando ho fatto casa del regime, no, FBT, fatto come toccavano. Sì, all'epoca andavano tanto anche montata, però qua stiamo parlando di cose un pochettino più grosse rispetto a quelle lì. Comunque ultimi prodotti, RCF ha fatto la storia dell'acustica italiana. No, sì, sono quei prodotti nuovi che stanno andando, confermi che stanno andando alla grande. Comunque ciao Antonio, Gavi. Sì, ciao Antonio, buonasera. Sì, BC è diciamo la casa madre di tutti gli altoparlanti, diciamo l'audio speaker, gamma professionale, poi ogni casa se li fa customizzare per le loro esigenze. Per esempio Outline li fa customizzare per loro, più o meno tutti montano quei componenti, più o meno tutti. E nelle discoteche si usava molto Outline, poi si usava Picker Sound nelle discoteche, e poi cosa si usava? Ah, le reference, le Alfa Turbo, abbiamo installato noi molte, queste Function One che sono impianti da rave, quelle sono pistole, sono LSS, si usavano molti impianti così. Non, io montarlo più che altro la vedo quando si fa karaoke, quando si fa montarlo a un livello professionale, a me come suono non piace, poi non lo so, ma come suono non piace. Io per la montarlo preferisco 100.000 volte RCF, se prendervi la vecchia serie Art erano fenomenali. Sì, vabbè, naturalmente dipende da cosa devi fare, se devi fare musica da stadio non usi quei prodotti lì, però guardi, in un piccolo ambiente così così, casse che non hai grosse pretese, già vanno bene, hanno fatto anche loro, come si dice, loro sporco lavoro, però quando stiamo parlando di quei livelli lì, BAC e cosa, Turbo Sound, Martin, GBL, Eclipse, anche se Eclipse non è che ne abbia mai visto concerti, in America forse andavano le casse professionali, se professionali della Eclipse, però qua non mi è mai capitato di vederle, solo a Russia ho sentito l'Eclipse, quei cassoni da paura, hanno prestazioni, non so quanti altoparlanti al mondo riescono ad avere quelle pressioni sonore all'epoca, magari adesso sì, ma all'epoca non lo so se c'era qualcuno che riusciva a batterle l'Eclipse. Riprendi Antonio e poi passerei a Gavito. Guarda che stai sbagliando, RCS, FBC, sono fatti a te, capito, non solo può confermare, c'è roba veramente professionale che costa molto le dinamiche, c'è una fantastica, spingono che è una bestia, la sto leggendo perché un periodo qualcuno si usava RGS, c'è stato un periodo che usava RGS, e spingono. Anto, guarda, io ti posso dire una cosa, RCF va bene, però RCF devi imparare pure a fare qualcosa in legno, perché RCF si è tenuto quasi tutta roba in plastica. Io sono di quelli no plat, a me la plastica nel suono non mi piace. Poi possono dire quello che vogliono. Sto parlando di roba. C'è la serie, sì, una serie professionale RCF, ma qualità prezzo prenderei altro, qualità prezzo prenderei altro. E niente, sì, allora Roberto, guarda, Turbo Sound, per essere esatti, montava componenti londinesi, si chiamavano Precision Device, Precision Device, erano degli altoparlanti che aveva costruito apposta per Turbo Sound e per Fuxio One. Erano altoparlanti a bassissimo wattaggio e altissima resa, cioè come woofer, tu prendevi un 18 pollici che andava montato su un caricato a tromba, diciamo, io ti parlo di un medio basso, un 18 pollici che aveva 300 watt RMS ed erano 600 di picco. Però se tu questo altoparlante lo paragonavi, tipo, ti posso dire, a un GBL, a un RCF o a un altro altoparlante, anche a un BEC, era superiore, nettamente superiore, non aveva nessun, non aveva niente a che vedere con il altoparlante. E se prendevi il driver, quello aveva la compressione, erano piccolissimi con delle bobine fatte, mi avevano spiegato come erano, che materiale erano queste bobine, ma avevano rese bobine a 60 watt RMS da 1,75, da meno di 2 pollici, avevano paura, certi caricamenti erano fenomenali. Sì, sì, naturalmente poi con la tecnologia i materiali sono migliorati, sicuramente, vale, quello non è necessario di dargli troppa potenza perché con un watt ti spara, l'altro ne ha bisogno di 20 di watt per avere la stessa pressione sonora, poi ci siamo dedicati DB pure, che faceva bei componenti. Io sono DB, le cose degli audio performance. Beh, David, non l'ho coperto in questo passaggio, c'è un po' di QRM, cosa ha detto Roberto? Allora, io ho nominato il DB come componenti di diffusori, e il modello però l'ha letto Antonio, però io non lo conosco, che a te che tu sei esperto. Audio performance. Ho capito, audio performance, confermi. Allora, Roberto, se conosci l'audio performance. Certo che le conosco le performance, ne avevo avuto 4 teste, doppio 12 pollici e tromba a 3. Audio Performance è nata per imitare la Meyer Sound, le MLS3, perché ci assomiglia molto, però non sono uguali, la Meyer è molto più piccola, la performance è un po' più grande, un po' più pesante, con componenti totalmente diversi. Il medio basso è caricato a tromba, con la guida d'onda, siluro, e così sono anche le Meyer, però la Meyer ha fatto tutto un altro tipo di concezione nella banda alta, cioè la tromba a 3 pollici con gola profonda a 45 cm. Io la do performance ne ha avuto 4 terze e 2 sub, era 2 doppi 18. Sassari sono stato, diciamo, l'unico ad avere originali, perché poi un certo service di Sassari si è messo ad autocostruirle, e tutte le audio performance che ci sono a Sassari sono tutte autocostruite. Da poco mi chiama questo amico Vavino, ho delle autoparlanti da vendere, delle audio performance belle, nuove. Io ho fatto, ma dove le comprate queste audio performance qua? Ho detto, guarda che sono autocostruite. No, mi ha fatto la fattura, vabbè, domani vengo a vedere queste audio performance. Vado lì, autocostruite in truciolato, invece di essere in betulla. E ho detto, queste sono autocostruite. Sì, ma ha lasciato la fattura, è del processore. Quindi il processore lo performance, le casse sono autocostruite. Ho detto, se le apriamo, quelli sono dei woofer chiare. Scommetti, è impossibile, apri l'autoparlante, ha girato l'autoparlante, ha preso l'abitatore, ha smontato il coperchio, dopo con la 12 chiare, 60 euro di cono. Avevo le originali, la loro performance ha 137 dB, un watt a un metro, l'originale, e la Meyer ne ha 145 dB, un watt a un metro. Le auto performance suonano per fare, lo so per cosa vanno bene, per fare carri carnevale, perché le senti a 100 metri ti fanno paura, però non è qualità, cioè la performance tu prendi un suono ignorante, lo prende, ti dà fastidio. Io con la auto performance ho fatto una sfilata, perché ce l'avevo per i carri, quello lì, ho fatto una sfilata a Siamanna, ho fatto 3 giorni, ho fatto Siamanna, Sola Russa e Tramassa. C'erano questi impianti, io ero il primo carro, proprio il primo carro che partiva. C'erano 8 carri. Io prendevo, mi sentivo dietro a tutti gli altri carri, capito? E gli altri avevano i Meyer, avevano i Martin, c'era qualcuno che aveva Montargo, le V20, il Montarbone lo chiamano. Ma avanti, tu sentivi questa cosa, sentivi poi sentivi le trombe belle, pam, pam, pam. Gli altri provavano ad alzare chi ha fatto danno, chi ha fatto casini. Io l'ho tenuto sempre a 0 dB, con i finali piccoli, e finali da 800 watt RMS per i medio bassi, 150 watt per gli alti, e per i sub erano grandi, però era un impianto piccolissimo. C'è gente che spaccia a 20.000, io li avevo portato finali piccoli, però sono autoparlanti che hanno un alto rendimento, mi sembra. Già pompano. Quelle che ho sentito eccezionali sono le Martin, le colleghe sono eccezionali, eccezionali veramente, come ricordo. Pompano forte. Se tu dici comunque c'è la cosa professionale, dipende. Va bene, dai, io vi devo salutare, ce lo risentiamo, un discorso, eh. Ciao Antonio, dai, hai sentito, buon tutto, vai. Sì, ciao Antonio, sentiamo le prossime, buona serata e buon tutto, davanti Roberto. tappa. Ben gli impianti che ci siamo dimenticati, bei componenti di grandissimo pregio, altissime prestazioni, l'Electro Voice, che costavano all'epoca, non so, sono qualche soldino. Ma ti giro la fotografia di due Subaru ho preso l'altro giorno dell'Electro Voice, adesso te la giro. Li ho presi e me li ho risistemati perché sono... è una serie bella, è una serie bella, me l'ho tutti riverniciati, le stuccate, stasera me li stavo facendo piano piano, adesso mi sto girando la foto, non sono messi male al maluccio, però mi stavo dopo 18, lascio vedere, mi sto girando la foto. Belli, suonano, hanno comprato il nudino questi qua. No, per voi hanno fatto la storia dell'hi-fi come l'ha fatto la Clips, la GBL, erano prodotti, pochi produttori al mondo che costruivano anche i componenti, non facevano solo l'assemblaggio, li costruivano, come la Gauss, la Gauss non so se esiste ancora come marca, ma faceva dei bassi allucinanti. Per voi si faceva anche altoparlanti domestici, da paura, che costavano cifre importanti, paragonabili alle Clips, e anche le altre che ci siamo dimenticati. Anche le altre che sono belle. E niente, c'avevo la foto del concerto del Turbo Sound, però non me la ritrovo. Era allucinante, 16 tette 8 sub, le THL 4, ma avevo una spinta che facevo una tachicardia. Bene, con la foto, ma le stai restaurando con le come si chiama? Electro Voice, quello che mi ha mandato la foto. Scusa Robert? Le stai restaurando, ho visto. Sì, le sto restaurando, ma le sto mettendo a posto. Sono nuovi, però magari un po' col tempo, ma mi vanno bene per adesso, quelli in stagione si noleggiano, capito? Mi chiamano due sub, due cose, si noleggiano. Quindi fai adesso il momento di attrezzarsi. Ma sono doppio fuffo e più coso di Twitter, a due vie sono queste? No, quelli sono sub, doppi 18 pollici, sono semicari, sono reflex, ma hanno tipo, sono semicaricati a tromba, capito? Sono semicaricati a tromba, mi ti trovano la foto dei coni. E vanno molto bene, hanno una buona resa qui sub. Perché le tubulisti queste sembravano che facevano una cosa simile alle GBL con quella griglietta metallica, però erano due vie, doppio fuffere da 18 e tutta la tromba c'avevano un amico mio che stava vendendo, poi alla fine ho lasciato perdere, erano troppo voluminose per i miei gusti. Sono un po' ingombranti, aspetta un secondo, devo farlo tempo. Sono molto ingombranti. Però ti devo dire che questa serie qua come pesantezza si possono sopportare perché li carichi da solo. Questi qua li carichi da solo. Poi un'altra marca blasonata che pochi conoscono sono le Servo Drive, che sono dei sub, in pratica non hanno magnete, sono hanno iconi meccanici, cercali. No, non le conosco. Vabbè, io non è che sia aggiornatissimo, io sono di vecchia scuola, dai, diciamo, quando le riviste adesso sono un po' quello che sto seguendo, ma fino a 10 anni fa sono aggiornato, dai. Poi tutta questa roba nuova con questi sistemi nuovi, la Nare, qualche marchio conosco, però non è che sia molto informato. Però ho visto che con dimensioni piccolissime, che tirano delle pressioni sonore, spaventose, vabbè, sono cambiati i materiali, per cui prima per spingere un cono lo vedo alle potenze, adesso sono talmente leggeri, hanno dei magneti, non ne parliamo, di che c'è tutto neomidio e cose del genere, e hanno delle rese con dimensioni molto molto inferiori a quelle che potevano essere 20 anni fa. Sì, però quello che ti sto parlando io sono dei coni che sono della tua epoca, che si chiamano servo drive, e forse tu che sei appassionato ti potrebbe interessare anche come è stato, come è costruito quel sottoparlante. In pratica è una cosa meccanica, non ha magnete, è una cosa meccanica, fa lavorare tipo, è tipo un telegrafo che prende e fa muovere la membrana, questa specie di motore, ma hanno altre potenze, sono sub che hanno 12.000, 15.000 watt a cono, sviluppano. Servo drive. Ma spiegami un po', perché c'era tanti anni fa, parliamo negli anni 40, fino agli anni qua, non hanno il magnete, c'è un trasformatore però vicino. Bravissimo, però vabbè, quelli sono diversi, adesso mi scappa il nome. Questi qua sono degli anni 90, anni 85-90, li montavano su, la servo drive era il servizio degli U2, dei Synchromite, degli U2, degli Yes, la usava, tu sicuramente gli Yes li conosci, usavano servo drive, anche come trombe. Se ti interessa te li appunto e te li guardi come sono fatti i woofer, sono assurdi, Ma quelle hanno impedenza altissima, se non sbaglio, confermi? Hanno impedenze altissime sì, e ci vogliono amplificatori, proprio faceva la casa madre, faceva amplificatori autoparlanti. Era l'impianto ufficiale degli Yes, degli Synchromite, degli U2, e non voglio sbagliare, oddio, una fesseria, ma sapevo che anche i Queen avevano fatto delle situazioni con quel PA, con quel diffusore. Ma anche io non lo conosco, però la tecnologia qualcosa l'ho vista, dai, tempo, tante per apparecchiature, ma molto molto vecchie di età, tantissime, decenni e decenni fa, però sono tecnologie micidiali. Naturalmente ci vogliono watt per farli camminare con l'altoparlante, adesso magari utilizzano cose un pochettino meno complicate. Non ho visto quell'autoline che non conoscevo, cavolo, quello che mi ha mandato la foto con le bestioline, cavolo, anche le connessioni, tutto. Come l'avete collegato? Che cavi stavate usando? Di? Poi sono cavi a 4 poli della Neutrik, ma la Nare sta parlando, secondo della Nare. Sì, la Nare sta parlando. Sono dei Neutrik, dei cavi Neutrik, che si chiamano Spicon. In pratica è un cavo a 4 fi a 4, è un cavo a 4 e 4 per 4 per 4 per 6 mi sembra che sia. In pratica esce dall'amplificatore, in pratica usi quell'impianto a 3 amplificatori a 4 vie. Si usano due canali per le trombe, due canali per i midi, due canali per le trombe e due canali per i midi. Esci dal finale, esci dalla, diciamo, dal rack, per le tette, arrivi su, hai uno splitterino che fai da serie a parallelo e poi prendi e fai parallelo con l'altro che ho parlato. In pratica fai salire a 16 ohm, e poi piloti di nuovo con 16, fai il parallelo e scendi a 8. Così per ogni cassa, capito? Loro lavorano un ohm e mezzo, quindi vanno alla grande. Sono cavi a porta molto, molto flessibili, visto, non riconoscevo, comunque un bellissimo lavoro. E dove era quella operazione lì? Dove l'avevate messo quell'impianto? Bello grosso, Quello impianto lo usiamo per fare il tour quando vengono i nomadi. Allora, con quell'impianto però facciamo Ruggeri, i nomadi, Stash, The Colors, per Dolce Nera, diciamo tutti i live un po' importanti. Perché poi per fare musica, per esempio di G7, qualche cosa non fa, abbiamo il RQ6, sempre 16 pezzo e 4 sub, si chiama Cube, diciamo è la stessa vita dell'FBT, mi segue. Bel giocattolino, complimenti. Cose, non so quante decine di migliaia arrivate, ci avevate ma quell'impianto di watt non è grosso, perché quelle tette sono 500 watt AS, sono 16, e come wattaggio non è grandissimo, non è questa grandissima cosa, e hanno una buona pressione, hanno efficienza watt a metro. Per esempio con i nomadi dove fanno la festa delle olive, comunque giù di Cagliaritano, a Villa Massargia, noi abbiamo coperto di giorno, il concerto era alle 4 di sera, c'erano 20.000 persone, siamo andati alla grande, gli After Hours li conosci, la banda Bardù, i Modera City Ramblers, Forzo Leali, Gino Finardi, tutti quelli lì, Anna Tattangelo, le Vibrazioni a Olbia, abbiamo fatto qualche cosa di serio con quell'impianto. Quello del portatore sono andato un paio di anni fa, la PFM, chi l'aveva fatto quello? No, non ce l'avevamo noi, non ce l'avevamo, quello era Rockhouse. Rockhouse R, lui è? Sì, positivo. E anche quello ha fatto dei bei concerti qua in Sardegna. E quello è il campione, quello è il numero uno, Alberto è una garanzia. Alberto ormai va bene, intanto che c'è un pochino vecchiotto, cioè non vecchiotto, è un DVA buono, bello però, lui fa molte serate, quell'impianto lavora tutti i giorni. Poi c'è una bella sala di registrazione tra l'altro. Ma scherzo, Alberto è un campione, non ce n'è in Sardegna, e in Italia. Ragazzi, noi qua stasera abbiamo un artista di Colonna, Alberto è uno dei migliori tecnici d'Italia, no, ma questo è da sottolineare. Sì, lo so, è molto conosciuto anche fuori dall'Italia, una persona, una vita che in mezzo a questo campo, per cui è stato il padre di molti tecnici del suono, di cui sono passati, molti sono passati da lui. Quanti anni è grandicello quell'uomo? Sì, è grande, però è bravo, però è sempre bravo, è sempre professionale, e poi ha attrezzatura, molta attrezzatura, investe molto e va. No, anche noi facciamo per esempio Ron, l'Artico 31, noi quanti abbiamo fatto, un'infinità, Bennato, Do di Battaglia, che ti posso dire? certo, quando vengo qua non è che ce ne siamo avuti di andare a cercare la roba, dai. E dimmi un po', ma voi ci avete i limiti come legge, come normativa di pressione sonora, o più ce n'è? Ma no, non ci sono limiti. L'impatto acustico fanno, quando l'impatto acustico con diciamo l'ispettore, e ti dico devi dichiarare che impianto usi, quanta potenza hai, e ti danno, e in base a, diciamo, a, anche alla situazione, ti danno la piazza, e non è che uno dice lo voglio fare qua e devo montare questo, no, non è così. Se loro fanno una cosa che dicono questa pizza porta a 20.000 persone, deve essere uno spazio adeguato a 20.000 persone con vie di fuga, e quindi tu in base a quello devi montare un impianto, capito? Sì, sì, sì, no, ma io dico, per dire, c'hai un campo aperto da un ippodromo di strada, dove non c'hai disturbo di niente, quant'è, che limite ci avete voi, dal palco sino all'ultimo spettatore che è a 80 metri, che vi date un limite voi, dice tanto già basta il volume, o aumentate oltre quel limite, diciamo, di ascolto? Motore ci vuole, vabbè, motore ci vuole, no, non hai nessun limite. Però devi, però a volte è capitato di fare anche piazze grandi e lavorare con pochi dB, perché avevi magari una buona resa, perché non lo so, c'erano dei palazzi, presi da Torre Torre, si perde la consolata di lì, lavori bene con 5-6.000 fat, non è che hai questa grandissima cosa, perché più alti c'è la chiesa davanti e ritorna. Addirittura si fanno anche delle importazioni, dei sub, diciamo, delle configurazioni cardiodi a cuore, per, in modo che non, i bassi non vadano, le basse frequenze non dominino sui lati, ma vada tutto in avanti, e sul palco non devi sentire nessun, perché ci sono gli artisti che sul palco non vogliono sentire un filo di basso, una bassa frequenza non la vogliono sentire, allora viaggi sul cardioide, spara tutto avanti. Avete visto quelle configurazioni con i sub girati, uno che se mamma dice ma il sub mica è sbagliato, non ho sbagliato così, è una configurazione cardioide, oppure un sub uno dietro l'altro, capito? Sì, sì, sì, assolutamente. Io mi è capitato, questa domanda te l'ho fatta perché tanti anni fa avevo visto ad Ajaccio, sono andato, c'era il concerto dei Blues Brothers e c'era il tecnico del suono, ma era un perfezionista, c'era il fonometro, girava tutto, le facevano le prove, in ogni angolo si metteva, misurava quanti dB di coso c'erano di pressione sonora, e regolava, no, alza, bassa, regola quello, e ha fatto tutte queste operazioni, ed è stata la prima volta che ho visto un lavoro così scrupoloso, un concerto, normalmente prendono, partono e vanno. Adesso, se presente, non sono aggiornato, io sto parlando almeno 15 anni fa, fai 20 anni fa, buoni, forse anche di più, e ho visto questo concerto, c'era il tecnico del suono, un ingegnere, ma si ha controllato tutte le sedie, gli spazi, gli angoli, faceva tutte queste prove a centro, laterale, non so se si utilizza ancora, almeno se lo fanno adesso questo sistema di controllo, perché era una piazza enorme, più grande di Piazza d'Italia, tiene presente, una cosa enorme, ad Ajaccio, cioè Piazza di Napoleone, non ricordo come si chiama, e forse c'erano dei limiti di pressione sonora. No, non erano limiti di pressione sonora, quelle robe, quello lì lui stava prendendo e lui stava prendendo e misurando, l'analizzatore di spettro, perché tu in base a quanto ti sposti devi vedere che gita fa la tromba, quindi non era una cosa di limite. Controlli prima un cluster, poi controlli l'altro, poi controlli le basse frequenze, vedi dove stanno, vedi che curvatura hanno, vedi che curvatura sta andando, se stanno squadrando, se stanno. Beh, ci sono tanti parametri da tenere in considerazione per avere un'ottima resa. Fanno dei controlli per i rientri, mi segui, perché magari l'artista non vuole sentire il ritmo degli altri frequenze sul palco, quindi lavora un po' con pochissimi fatti. E poi devono stare attenti ai riverberi e cosa, perché in certe posizioni magari lo senti in ritardo, tu per il colpo della batteria ti arriva in ritardo se sei molto lontano, e magari ti riflette sulla parete che c'è dietro, c'è un palato, sono tutto problemi, ormai detto fate tutto col computer, tutto digitalizzato, ma prima erano, diciamo, lavori tutti artigianali cosiddetti, dai, riprendi. Sì, prima si faceva doveva avere orecchie, adesso ti dice tutto il computer, adesso vai scheda audio e ti dice tutto il computer. Però prima si faceva tutto orecchio, prima mettevi sub, facevi configurazione LR, non si sbaglia mai, configurazione LR, impianto poggiato sopra o appeso, e a 150 metri mettevi lettori, mettevi ritardi per avere altri 150 metri di suono. Perciò si girava con 190 con un remoto a 13 metri solo con l'audio, le luci lasciamo perdere, che ci voleva un gruppo elettrogeno da 100 kW solo per i fari, perché ho tutti quanti lampade a scarica a 1000 watt, 2 far, erano barre da 6 far, avevi 100-120 far, ci voleva un gruppo elettrogeno, più i dimmer, più le luci, tutto incandescenza era, gruppi da 120 kW, 160 kW. Abbiamo fatto concerti noi accoppiando gruppi, avevo tre gruppi da 100 kW l'uno e un altro gruppo da 60 per l'audio, quindi vedi tu se c'è l'assorbimento, e capi da tirare con le 16 ampere, tiravi 50-60 16 ampere sull'americana, americana imbarcata, c'è su, no, non verrebbe, adesso a raccontarlo, a parlare così, a farlo era, ci voleva bestemmiarli, Sì, no, adesso con LED, undicesimo della potenza di coso, poi tutto computerizzato, regoli le luci, intensità, coso, cambi colore, prima invece dovevi mettere gli schermi per fare col cannone, per cambiare il colore, giravi, me lo ricordo, erano altri tempi, vabbè, però era più bello, diciamo, per certi versi, perché vedevi proprio il tecnico delle luci, si divertiva, faceva qua, là. Adesso schiacci un pulsante, c'è un mixer video coso per le luci e ti regoli tutto quello che vuoi, giallo, verde, rosso, giochi di luce, ti fa tutto in coso, mentre prima c'era il tecnico che si metteva lui manualmente, le faceva, se lo saprai, molto più di vecchio, perché ce le hai vissute, io le ho solo viste dall'esterno, però è stata la storia, è iniziata così e poi piano piano poi si è evoluto tutto quanto. Adesso quando vedi quei cannoni che ci voleva la ventola, che scaldavano la paura, ti accecavano, poi te li puntavano in faccia, non vedevi più per 5 minuti. Sì, c'erano quegli occhi di bue, quando li puntavi, bruciavano la testa a 20 metri, lampade da 3 kW, per carità, una dirata di gavo, Robert, una dirata di gavo, 40 metri di gavo, oi. Va bene, abbiamo fatto anche quello. Vabbè, io vado a cenare perché mi sta scendendo un po', la pancia che mi sta tuonando, o i tuoni, e ti devo lasciare. Vabbè, se vuoi piacere sentirti fare questo, dai, con questi discorsi da concerto, con questi discorsi di concerto sto parlando. Ma Roberto, ci sentiamo tutte le prossime, che io vado a cenare. A dopo, se ci sei, io dopo vado solo in radio. Vabbè, magari se concedo anche io vado a mangiare qualcosa, e poi magari, tanto oggi è sabato, domani non si lavora, qualche cosa voglio fare in altre bande, se riusciamo a fare qualche canto di nuovo. Dai, comunque se ci sei, prova a chiamare, ben volete, è sempre un piacere discutere con te. Dai, ti saluto, buona cena e buon tutto. Ciao, ciao. Ciao Roberto, buona cena.